Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 19 gennaio 2014, 145esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo la collaborazione preziosa di Francesco Azzurri e per la selezione musicale Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni. Oggi vi faremo conoscere un gruppo di simpaticissime Bertucce che abbiamo incontrato nel parco rifugio dell'Abatino, in provincia di Rieti. E poi vi porteremo fino a Milano, dove la nostra Roberta Marino ci racconterà di un presidio che si è tenuto nella città, nel centro commerciale di Milano, davanti ad alcuni negozi che vendono pellicce. Valentina Reggioli ci dirà di una buona notizia che arriva dall'estero, la chiusura del reparto animali nei grandi magazzini Harrods, nel suo piccolo un evento epocale. Con la rassegna stampa Tigri di Carta torneremo ad affrontare la campagna pro vivisezione in corso sui maggiori media italiani, proprio mentre il governo è chiamato a emanare un decreto di regolamentazione della sperimentazione animale. E infine, per la ricetta del giorno, Gabriele Palloni ci stupirà con una proposta straordinaria nella sua semplicità. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Le voliere delle Bertucce, anche queste sono arrivati in momenti diversi, poche Bertucce le dobbiamo tenere separate perché non si riescono a integrare, capita non raramente che si riescono ad aprire degli squarci nella rete per cui stanno fuori e poi in genere rientrano dopo qualche ora. Adesso in particolare comunque abbiamo un soggetto che non ne vuole sapere, sono circa 4 mesi che sta fuori qui sempre, non allontanandosi assolutamente dalla voliera. Fuori dalla rete? Fuori dalla rete, ma non vuole entrare dentro. Noi elaboriamo le nostre strategie per cercare di convincerli a entrare e loro, le loro per cercare. E quindi ecco lì abbiamo studiato, l'ultimo è questo dove lui sta appoggiato sopra, che l'ultimo marchingegno che abbiamo inventato, che quella si alza e lui una specie di botola. Per cui dovrebbe entrare dentro. Una trappola, diciamo. Sì, è una trappola che però loro capiscono benissimo che... Non si fa fregare così facilmente. Si fanno fregare quelli che a un certo punto decidono di entrare, perché ecco, la nostra strategia è basata soprattutto di mettere tantissimo cibo dentro la voliera. Questa è una... dovrei riuscire a farla entrare, insomma io ogni giorno adesso, perché questo è il periodo, questa settimana che abbiamo queste... questa scimmietta, due scimmiette fuori. Ne vediamo una che è vicino alla botola, sì, sopra la rete. Ma certe volte si mettono sedute proprio, quindi con le le gambe, diciamo, penzolanti dalla botola, e stanno lì guardando noi dicendo: ma guarda che... Anche perché nel costruire la botola loro ci guardano, quindi, certo, capiscono, quindi studiano tutto. Quindi in genere situazione. Quando entrano è perché vogliono entrare. Sì, sì. Insomma, questa voliera alla fine si sta trasformando in una serie di botole in tutte le parti. Comunque questo delle voliere è anche un problema abbastanza grosso, perché queste strutture hanno bisogno di una manutenzione continua, sono sollecitate continuamente, quindi nel giocare si buttano proprio a ridosso della rete, volutamente la teniamo poi ancorata in pochi punti perché deve essere elastica, e questo comporta che spesso bisogna comunque intervenire, rinforzare, mettere, sostituire i pali, rimetterli. Questa voliera è all'ombra, ci sono alberi sopra che la proteggono, e in parte usano anche delle grotte naturali. Sì, quella è una grotta naturale. Ci sono, sì, degli spazi, diciamo, ombreggiati, coperti e più protetti anche così naturalmente. E poi ci sono dei passaggi fra una voliera e l'altra. Queste sono tutte quante unite, queste voliere, cioè sì, è un passaggio, noi quando dobbiamo tenerne libera una c'è utile, certo, poterle chiudere e quindi tenerle da una parte o dall'altra a seconda. C'è una madre con un piccolino attaccato, sì, sul, sì, collo. Dunque questo, per quanto riguarda le cure di piccoli, è descritto, insomma qui lo fanno spessissimo, i piccoli vengono utilizzati molte volte per risolvere i conflitti soprattutto tra i maschi dominanti, per cui il maschio, diciamo in genere, il maschio che sta al livello, diciamo beta, comunque il livello, quello immediatamente successivo al maschio dominante, in genere va da una delle femmine che ha il piccolo, e la femmina lo prende, insomma la femmina non ha problemi a darglielo, per cui lui con questa specie di trofeo in mano lo porta al maschio dominante, mettono il piccolo in mezzo e cominciano tutte e due a interagire tra di loro e col piccolo, e questa storia può durare anche 10 minuti. Dopo il piccolo sale in groppa al maschio dominante, che quindi se ne va in giro per la voliera per un altro 10 minuti, un quarto d'ora, dipende, con questo piccolo, e a un certo punto il maschio dominante lo riporta alla madre. La funzione comunque è quello di ridurre i conflitti tra i maschi, diciamo, che sono alti nella gerarchia. Insomma, questi quando poi cominciano a litigare veramente si possono far male. È successo? Sì, beh, ogni tanto sì, succede. Hanno anche per fortuna una grossa capacità di cicatrizzare le ferite. Interveniamo solo quando è necessario nel mettere dei punti, anche perché molte volte mettere i punti poi loro manipolano e quindi sarebbe quasi tempo perso. Voi entrate abitualmente dentro le voliere? Molte sì, in alcune no, ma in quasi tutte sì. E anche lì bisogna sempre, avendo un minimo di esperienza, essere un po' accorti. Il pericolo potrebbe essere teoricamente che un piccolo si possa spaventare e possa lanciare un allarme, e a quel punto potrebbero intervenire gli adulti molto agguerriti. Sì. A detta di molti, nel giro dei prossimi 20-30 anni potrebbero dentro il tutto sparire dall'ambiente naturale, mentre in ambienti controllati cattività ce ne sono abbastanza. Ecco, se non si riesce a risolvere quelle che sono le cause per cui scompaiono, che sono essenzialmente deforestazione, poi bracconaggio, soprattutto per quanto riguarda i piccoli, vengono presi perché poi vengono venduti al mercato nero, insomma c'è un commercio di questi piccoli. Poi c'è un rapporto conflittuale tra le popolazioni umane, diciamo, e le popolazioni delle bertucce, per cui la convivenza non è facile, soprattutto perché per i danni che possono arrecare all'agricoltura. È un peccato, perché d'altra parte è anche vero che le strutture che detengono poi le bertucce, quindi i centri di recupero, ci metto un po' tutti, poi questi animali non si sa che fare, nel senso che non ci sono progetti di reintroduzione, non ha molto senso reintrodurli nel loro ambiente, diciamo, naturale, perché non si sono risolte le cause, e quindi si rischia di assistere passivamente a una scomparsa di questi animali, perché ognuno che potrebbe avere un suo ruolo non riesce a svolgerlo. Io credo, ma questa è un'idea mia, che i paesi che in questo momento economicamente stanno meglio, o comunque hanno maturato una percezione anche di questi aspetti connessi alla conservazione, questi paesi dovrebbero forse farsi carico meglio di questi progetti di reintroduzione, al limite anche, se non è possibile, in loco, per cause che oggi non riusciamo a risolvere, almeno garantire per i prossimi 40, 50 anni, 60 anni una situazione di permanenza di queste popolazioni nei nostri territori, in modo che quando le condizioni miglioreranno, allora avremo questa riserva che è possibile poi utilizzare per reintrodurre. Però se noi questa riserva ce la perdiamo, allora rischiamo di non avere più niente in mano. Leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Domenica 5 gennaio, una delle tante domeniche di sfrenato shopping milanese, tanto più che è la seconda giornata di saldi. Sull'autobus che dal centro porta in periferia c'è un gruppetto di signore che chiacchiera amabilmente. Una di loro si sofferma sul racconto del gatto di un'amica che rischia l'amputazione di entrambe le zampe. «Cosa le è accaduto?» le domandano angosciate le altre. «Pare sia finito in una tagliola destinata a una volpe», risponde. «Oh, poverino!» al coro unanime. Fin qui nulla da dire, anzi. Peccato che però la signora tanto affranta per il gatto dell'amica indossi una sciarpa con un vistoso inserto di pelliccia. Probabilmente non di volpe, magari nemmeno di gatto, ma non si può esserne certi. Sicuramente però di un animale che potrebbe essere stato vittima proprio di una tagliola o comunque di altrettanto indicibili torture. Possibile, mi domando, che la signora non si renda conto di che cosa indossa? Possibile sì, come non se ne rendevano conto quelli che poche ore prima ho visto ricevere un volantino contro le pellicce mentre sul loro giaccone c'era proprio quell'inserto contestato. Un giaccone magari acquistato in uno di quei lussuosi negozi del centro, davanti ai quali il gruppo La Lepre ha organizzato una serie di presidi in questa giornata scelta non a caso, proprio perché è nel culmine della sfrenata corsa all'acquisto, come ci spiega Marta, una degli attivisti del gruppo La Lepre. Noi oggi abbiamo deciso di fare 3 presidi contro le pellicerie proprio per sfruttare le giornate dei saldi, dove ci sono tantissime persone che si riversano in strada per andare a spendere gli ultimi soldi con i saldi, appunto, saldi che magari possono fare anche le pellicerie. Il presidio avrebbe dovuto continuare davanti a un'altra pellicceria poco distante, ma, sorpresa, il negozio sembra essere chiuso. Forse è fallito, dicono gli attivisti. Speriamo. Certo è che è solo una goccia nel mare per i 50 milioni di animali che ogni anno vengono ancora uccisi per l'industria della pelliccia. E mentre la protesta si conclude, ci diamo appuntamento per un altro presidio contro uno dei colossi di questa industria della moda, il MIFUR. La fiera della pelliccia, che a marzo si terrà proprio qui, a Milano. Chissà se per allora alla signora dell'autobus sarà venuto il dubbio sul materiale con il quale è fatta la sua sciarpa. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Sì. per un secolo da Harrods, i grandi magazzini più lussuosi di Londra, è stato possibile acquistare animali, e non soltanto cani, gatti e pesciolini, anche leoni, alligatori ed elefanti. Fortunatamente questo non è più possibile. Il Pet Kingdom, il cosiddetto regno degli animali domestici, almeno in teoria, che dal 1917 occupava il quarto piano dell'edificio di Knightsbridge, ha chiuso definitivamente, per fare posto, si dice, ad altri reparti di abbigliamento. A noi piace pensare che la chiusura sia stata dovuta alle proteste degli animalisti. Il reparto era diventato celebre per aver venduto in passato un coccodrillo a un commediografo, un elefantino a Ronald Reagan e un cucciolo di leone a due hippie australiani che fortunatamente, quando il felino crebbe, ci ripensarono e lo riportarono nella giungla in Africa. Dopo il 1976, per una legge entrata in vigore in Gran Bretagna, che vietava l'esportazione di specie selvatiche minacciate in via di estinzione, Harrods ha continuato a vendere soltanto, fra virgolette, animali domestici. Le critiche degli animalisti però non si fermavano, e non soltanto perché è ignobile vendere animali e selezionarli apposta quando ci sono i rifugi che straripano l'animale da adottare, ma anche per le condizioni in cui questi venivano tenuti in attesa di trovare un acquirente. Ci fa piacere comunque che il reparto chiuda, afferma un portavoce della protezione animali britannica, anche se avremmo preferito che Harrods ammettesse di farlo per rispondere alle richieste degli animalisti e non ad esigenze commerciali. Ed insieme al reparto vendite chiude anche, per lo sconforto delle famiglie dell'alta società londinese e non certo per il nostro, la Pet Spa, la spa per animali, dove il cane e il gatto potevano ricevere una pedicure da 40 sterline o una talassoterapia con bagno di fanghi da 50 sterline. E se hanno perso la spa, speriamo che abbiano guadagnato un po' di buon senso, per capire che l'animale, certamente, per essere amato, non ha bisogno di una spa, bensì di un po' di rispetto della propria etologia, che è anche più economico. When the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make of every blues day. Don't you realize you find next Monday or next. Oggi un classico della cucina toscana e è un classico della cucina vegana. A questo punto è la minestra di pane o anche ribollita, anche se dobbiamo fare una precisazione che la minestra di pane è oggi, la ribollita è domani, poi spieghiamo perché. Intanto diamo gli ingredienti, che per circa 6 persone sono mezzo sedano, una carota, 2 cipolle rosse, uno spicchio di aglio, un ciuffetto di salvia, un rametto di pepolino timo, abbondante olio extravergine d'oliva, 200 g di polpa di pomodoro, un mazzo di cavolo nero, una mezza palla di cavolo verza, 200 g di fagioli cannellini secchi, 500 g di pane raffermo, pepe nero e sale. Iniziamo facendo un battuto con il sedano, la carota e la cipolla e uniamo anche il pepolino. Copriamolo con un bicchiere di acqua, facciamo evaporare l'acqua, dopodiché uniamo l'olio e facciamo rosolare il battuto per qualche minuto. A parte, cuocete i fagioli a fuoco medio dopo averli lasciati a bagno con abbondante acqua la sera precedente. Li cuociamo con uno spicchio d'aglio in camicia e un ciuffetto di salvia. Quando il battuto è ben rosolato, aggiungiamo la polpa di pomodoro ed il cavolo nero che abbiamo pulito dalle costole più dure e va sfogliato, prendendo le foglie nere e cercando di levare la parte dura, così cuocerà prima in maniera più omogenea. Queste foglie poi le spezziamo grossolanamente anche o con un coltello a mano. Le facciamo appassire e dopo circa un quarto d'ora aggiungiamo il cavolo verza tagliato a strisce non troppo sottili. Se si gradisce una minestra di pane meno forte, un po' più delicata, possiamo aggiungere anche della bietola, oppure quella classica lasciandola così, appunto con cavolo nero e cavolo verza. Facciamo cuocere per altri 10 minuti, dopodiché copriamo tutto con acqua e lasciamo sul fuoco medio-basso fino alla cottura dei cavoli. Quando i cannellini saranno cotti, li passiamo al passaverdure o con un frullatore a immersione facendo una purea di fagioli, avendo l'accortezza di lasciare qualche romaiolo intero. A questo punto, quando i cavoli saranno cotti, aggiungiamo la purea di fagioli, aggiustiamo di sale e pepe e uniamo anche i fagioli interi. Mi raccomando che deve essere ben saporita, non salata, ma saporita sia di sale che di pepe, perché poi andremo ad aggiungere il pane toscano, che notoriamente non è salato. Adesso prendiamo un tegame, possibilmente se abbiamo un tegame di coccio, e facciamo uno strato, la mettiamo prima la nostra minestra sotto e la copriamo con uno strato di fette di pane, meglio se di qualche giorno, raffermo, tagliate non troppo spesse. E continuiamo così, strato dopo strato, cioè pane e zuppa, fino a che non abbiamo terminato la minestra. L'importante è che questa zuppa rimanga bella brodosa, bella cremosa, perché poi andremo a lasciarla a fuoco lento finché il pane non assorba tutto il liquido e inizia a sciogliersi e a creare una crema. A questo punto mettiamo un giro d'olio extravergine d'oliva buono e un'altra passata di pepe nero e la portiamo in tavola, bella calda. Questa è la minestra di pane. Mentre il giorno dopo prendiamo la minestra di pane, la mettiamo in una padella con un po' di olio, la lasciamo scaldare con un mestolo di legno e la ribolliamo. E in questo caso abbiamo la ribollita. Quindi un piatto che ci va bene per due giorni della tradizione toscana e completamente vegan. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Questa settimana sulle pagine dei maggiori quotidiani spicca la prosecuzione della campagna pro vivisezione dell'inserto domenicale dedicato alla cultura del Sole 24 Ore. Stavolta l'impostazione delle pagine e dell'argomentazione è piuttosto sulla difensiva. Il titolo principale è 10 risposte agli animalisti, con un grande articolo di Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini, nel quale si passano in rassegna tutti gli argomenti, o perlomeno quelli che si ritengono i principali argomenti spesi contro la sperimentazione sugli animali. Ecco i titoli dei 10 punti. Non è vero che in passato la sperimentazione animale non è servita a nulla. Senza di essa non esisterebbero le scienze biologiche e la medicina scientifica addirittura. Non è vero che oggi la sperimentazione animale è inutile. Praticamente tutti i trattamenti in grado di curare e di lenire le principali malattie dell'uomo, come i tumori, le malattie cardiovascolari, eccetera, continuano a derivare dalla ricerca sugli animali. Qui ovviamente è impossibile non notare come si tratti di una tautologia. Se tutte le ricerche si fanno basandosi sulla sperimentazione animale, poi è piuttosto facile dire che tutti i risultati ottenuti sono basati sulla sperimentazione animale. Altri titoli: non è vero che i dati raccolti studiando i modelli animali non sono validi per l'uomo. Non è vero che si possono già usare solo metodi alternativi agli animali. Non è vero che la sperimentazione animale si fa normalmente anche su cani, gatti e primati, anche se poi si riconosce che queste specie sono sottoposte a vivisezione per il 2-3% di tutta la ricerca con animali. C'è un passaggio in cui si dice: non è vero che gli scienziati sono indifferenti alle sofferenze degli animali, e meno male. Non è fondato scientificamente sostenere che gli animali hanno un livello di coscienza e una dimensione psicologica equivalente a quello umano. Ecco, questo è un punto interessante. Le neuroscienze hanno scoperto quali sono le strutture del sistema nervoso che possono generare stati di coscienza. E gli animali che si usano per la sperimentazione non hanno un cervello altrettanto sviluppato quanto quello umano. Questo mi sembra veramente un argomento che fa accapponare la pelle. Ci sarebbe da chiedere a chi fa queste affermazioni se la tortura su un topo sia tollerabile perché il cervello del topo è diverso da quello umano, e che cosa dire di quel 2-3% di cani, gatti e primati che gli stessi Cattaneo e Corbellini riconoscono essere sottoposti alla vivisezione. Poi si dice non è giustificato ed è offensivo verso le persone umane malate sostenere che gli animali hanno i loro stessi diritti. Fra parentesi, secondo alcuni, gli animali avrebbero anche più diritti, e qui veramente stiamo scendendo a un livello che non fa onore a Cattaneo e Corbellini. E poi la legge sulla sperimentazione animale danneggia la ricerca italiana e l'economia del paese e farà regredire le scienze biomediche e la medicina clinica italiane. Infine, ultimo punto, la legge sulla sperimentazione animale favorirà la ricerca clinica senza scrupoli sui pazienti, come dimostra la vicenda Stamina. Dicevamo, siamo sulla difensiva, tant'è che si usano argomenti veramente lontani da un criterio di accettabilità, da quello che ho appena citato, sullo sviluppo del cervello di topi, cani, gatti e primati, alla chiamata in causa dei malati e al ricorso a casi estremi come quello di Stamina, che non si vede veramente che cosa c'entri con la disputa sulla liceità della sperimentazione sugli animali. Vi segnaliamo anche l'editoriale che accompagna questo lungo articolo di Cattaneo e Corbellini, nel quale Il Sole si compiace dell'interesse manifestato dal nuovo segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, per una proposta arrivata proprio dall'inserto domenicale del Sole 24 Ore, una proposta che riguarda la possibile futura composizione del Senato. Matteo Renzi in questi giorni, in queste settimane, si sta battendo affinché il Senato non sia più elettivo, ma composto da sindaci e presidenti di regione. Il Sole ha suggerito di inserire nel nuovo Senato anche rappresentanti del mondo della cultura, con l'intento di accrescere il livello delle competenze tecniche e culturali all'interno del Parlamento. E per motivare questa sua proposta, che ha suscitato l'interesse di Matteo Renzi, cita proprio il caso della sperimentazione animale. Ad avviso del Sole, ogni decisione in materia andrebbe affidata ai tecnici, ai ricercatori. Evidentemente Il Sole conta sul fatto che attualmente fra ricercatori e scienziati c'è una maggioranza schierata con le vecchie tecniche ereditate dal passato, e quindi c'è una volontà di non cambiare lo stato delle cose. E la proposta di Matteo Renzi ha vari risvolti problematici anche sotto il profilo costituzionale, perché si tratterebbe di introdurre nel processo legislativo un organismo non più emanazione dei cittadini, ma espressione di secondo livello tramite la presenza di sindaci e presidenti di regione e di esponenti scelti non si sa bene come nel mondo della cultura e della scienza. Questo intervento del Sole 24 Ore però fa capire qual è il livello di pressione e il tipo anche di proposta prevalentemente tecnocratica che sta arrivando al mondo della politica. Chiudiamo questa rassegna citando dal Fatto Quotidiano di lunedì 13 gennaio un piccolo articolo di Maurizio Maggiani, lo scrittore ligure, nel suo vivario. Stavolta si parla di una gatta. Ne leggiamo una parte. Che cos'ha la gatta? Che cos'ha la gatta? Che cos'ha la gatta? La famiglia si interroga su che cos'ha la gatta. Dal mi sovracuto della gloria al re bemolle grave del vecchio Silvano, per tutti i toni intermedi, compreso il controtenorile del pubere giovannino, è un interrogativo che ha la stessa angosciata perplessità di quando, improvvidamente, la famiglia si chiede cos'è che non va nel mondo. E nel chiedersi cos'è che ha la gatta o il mondo, se ne stanno tutti lì a guardarmi, perché pare che io sappia rispondere di tutto quello che di oscuro infesta l'universo. La gatta è una settimana che dorme e se ne sta sulle sue. Dorme sempre, salvo qualche breve pausa per smangiucchiare qualcosa e darsi una ripassatina al muso e alla passera, di uscire neanche a parlarne. Unica variante è tra la poltrona poanga del soggiorno e il letto della camera di sopra, solo quando è appena rifatto. Oltre, naturalmente, alle 100 varianti in cui si stravacca e si arrotola dormendo. E in questo breve testo di Maggiani c'è tutto il mistero dei nostri amici felini.